7. Ascolta e controlla. 1. Che cosa vorresti fare in futuro? Vorrei prendermi un anno di vacanza. 2. Ti piacerebbe andare al concerto? Certo che mi piacerebbe. 3. Prenderesti un caffè? Lo prenderei con piacere. 4. Ti andrebbe di andare in discoteca? Certo che mi andrebbe. 5. Mi presteresti la tua macchina? Te la presterei volentieri, ma è dal meccanico. 6. Saluteresti i professori da parte mia? Certo, volentieri.